piano. Di Enrico Ruggeri. Esattamente un anno fa, l'11 dicembre del 2016, moriva una delle autrici di questo programma, Francesca Del Rosso. Amica, una giornalista, una scrittrice, una viaggiatrice appassionata. All'indomani della sua morte, il marito, che è quell'Alessandro Milan che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono molto bene, scrisse a Francesca una lettera su Facebook, una lettera che ha toccato milioni di persone in Italia, migliaia e migliaia di messaggi, mail, condivisioni, persone che hanno scoperto con quelle parole di Alessandro un pezzo della storia della nostra Francesca. Dall'11 dicembre dell'anno scorso il sorriso di Francesca ha camminato, ha viaggiato, ha continuato a toccare le persone, grazie soprattutto all'associazione che Alessandro ha creato, Uondi Sono Io, grazie a tante iniziative, anche una mostra fotografica che si chiama In Viaggio con Uondi, che racconta la battaglia di Francesca contro il cancro. L'associazione vuole diffondere quell'approccio alla vita che si definisce resilienza, di cui Francesca è stata, anzi è, una grandiosa testimonial. Resilienza vuol dire attraversare le difficoltà della vita in modo positivo, esattamente come lei ha vissuto la sua vita e gli ultimi anni, nonostante la malattia. Per questo vogliamo parlare di lei, ricordarla per le cose che ha scritto, per i suoi libri, i suoi viaggi. In qualche modo vogliamo tornare a condividere il ricordo di Francesca con chi non ha avuto la fortuna che abbiamo avuto noi, cioè la fortuna di conoscerla, noi che abbiamo fatto con lei un bel pezzo di strada molto piacevole, con le tante persone che hanno letto i suoi libri, che l'hanno vista in televisione parlare della sua battaglia contro il cancro, che hanno seguito il suo blog su Vanity Fair. Per questo torniamo a parlare di Francesca Del Rosso, dei suoi tanti colpi d'ala, di un volo che è stato breve, troppo breve, ma è stato intenso, ricco, che ha colpito la sensibilità di tanti. Lo faremo attraverso le sue parole, attraverso i suoi libri, le sue interviste, le parole di chi ha vissuto accanto a lei, il marito, il nostro collega, se così si può dire, Alessandro Milan. Lo facciamo forse anche per averla vicina ancora per un po'. Francesca se n'è andata giovane, a 42 anni, ma è stata una di quelle rare persone che vivono a ritmo accelerato. In questo lasso di tempo così breve lei ha viaggiato in mezzo mondo, ha scritto libri, ha avuto una carriera da giornalista, ha conosciuto il cancro, lo ha guardato in faccia, ha voluto condividere la sua esperienza per trovare un senso positivo anche in questo. Francesca Del Rosso, giornalista. Io mi auguro tanta, tanta, tanta prevenzione, in particolare per il tumore al seno. Purtroppo una donna su 8 nella propria esistenza imbatte, incoccia nel tumore al seno. Quindi io reputo che sia importantissimo conoscerlo, combatterlo e fare tantissima diagnosi precoce. Questo incoccio viene da una mia esperienza personale e per cui io sono molto, molto attenta a questo tema. Ho scritto un libro che si chiama Uondi, che vuole essere uno strumento per riuscire a combattere una cosa come il tumore, una cosa, se vogliamo, brutta, che viene considerata come un male inguaribile, con ironia e con il sorriso, come cerco di fare io, insomma, nella mia vita quotidiana. E vale la pena cominciare dall'inizio, da come Francesca ha voluto descriversi in poche righe sul suo sito personale. Sono Francesca, ma alcuni mi conoscono come Uondi, giornalista, scrittrice, blogger e sperimentatrice. Amo i viaggi intercontinentali e le sfide. E in questa descrizione scritta da lei sul suo sito personale c'è tanto di Francesca, i viaggi che lei adorava, la scrittura, le sfide, ma soprattutto c'è quella parola giornalista che rappresenta il suo primo vero amore. Nata a Milano, 1 giugno 1974, lei incontra la sua grande passione, cioè lo scrivere, mentre sta frequentando lo scientifico, perché collabora alla redazione del giornalino dell'istituto. E poi arriva all'università, arriva alla facoltà di filosofia e lì si mette davvero alla prova. Lei entra nella redazione di Sei Milano, siamo nel 95, quindi lei giovanissima riesce, rispondendo a uno strano annuncio sul giornale, a affacciarsi alla prima esperienza lavorativa. È una nuova emittente, sta cercando, dicono testuale, 60 giovani da buttare in mezzo a una strada, e quindi sta cercando di formare una classe di giornalisti che stiano vicino alla gente, che stiano a contatto con le notizie, con le pulsioni del paese reale, come si direbbe oggi. Ecco, Francesca è perfetta e si lancia a modo suo in questa avventura. È una scuola per lei, e poi ha la sua caratteristica di essere una persona molto carina, molto telegenica, con i suoi grandi occhi azzurri, insomma, come si dice oggi, buca il video. E con lei lavorano tanti giornalisti che oggi sono nelle principali redazioni italiane. Tra questi è Domenico Catagnano, che oggi è il capo redattore di TGcom. Era il 1995, cominciamo con l'avventura a San Milano, Francesca era con noi e lei fu assunta perché mandò un curriculum abbastanza particolare. Ha scritto anche "Ero sulla strada con Jack Kerouac", per dire, per far capire anche qual era la sua passione, i libri. Di lei ci ricordiamo ancora il suo aspetto, di voi sembrava una ragazzina delle medie, piccola, minuta, bionda, con questo ciuffetto, i suoi occhialetti da secchiona, e faceva ancora l'università. Era un gran bel clima quello di Sei Milano, eravamo, prima che colleghi, eravamo tutti amici, tutti giovani, e in questo clima fatto di tanto lavoro, ma anche di tante feste, di tanti momenti fuori dal posto di lavoro, lei era una delle animatrici delle serate che passavamo insieme, e anche allora andava di moda il mojito. Sono ricordi ovviamente belli, legati comunque ad anni stupendi, e in questi ricordi miei personali, ma penso anche di tutti gli altri colleghi, c'è anche un posto speciale anche per Francesca. E mentre già lavora, Francesca consegue la laurea in filosofia, che è la prima delle due che prenderà. La sua carriera da giornalista sarà una costante della sua vita, anche se avrà tante altre occupazioni parallele, e diventa professionista a fine del 98, quando Sei Milano va in crisi, lei passa in Rai. Ma nel 99 a Milano nasce una nuova radio particolare, che è, come dire, esula totalmente da tutte le altre radio che siamo abituati a sentire. Si chiama Radio 24, è una news and talk, cioè un'emittente di informazione, di programmi, di persone che raccontano storie, e Francesca approda lì per provare una nuova esperienza professionale. Però lei è affamata di novità, di nuove sfide. Radio 24 sarà la sua radio ancora dopo, quando tornerà come autrice, però nel frattempo c'è una novità: i grandi gruppi stanno entrando nel web e lei è chiamata in RCS per la prima iniziativa editorial digitale del gruppo di Via Rizzoli. E così la giornalista per passione Francesca Del Rosso, protagonista di questa puntata, arriva in RCS per il primo progetto digitale del gruppo milanese. Rimarrà lì per diversi anni e poi approderà all'agenzia multimediale del gruppo, AGR. Lei ormai è una specialista di radio e di video, e molte delle sue avventure professionali avverranno proprio lì, nel gruppo RCS. Poi dall'inizio del 2000 lei collabora anche con le trasmissioni culturali della radio svizzera italiana, realizza tra l'altro dei reportage dall'estero, insomma riesce a mettere assieme due dei suoi grandi amori, il giornalismo e i viaggi. Sono una viaggiatrice chilometrica. Più sono lontana dall'Italia, più sto bene. Come faccio? Risparmio su shopping, casa, moda e mi organizzo con enorme anticipo. Prenoto quello che serve via web e mi affido all'esperienza. Viaggio da sola o con tutta la truppa, a cui ho insegnato che l'importante è aprire gli orizzonti e vedere oltre. Brasile, Costa Rica, Giamaica, Canada, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Hong Kong, Australia, Togo, Sudafrica. Non chiedetemi quale paese mi è piaciuto di più, perché ogni viaggio è stato un pezzo di vita e sono già pronta per ripartire di nuovo. chi l'ha conosciuta lo sa bene, la prima caratteristica di Francesca è questa, è l'energia, è un'energia inesauribile che la fa passare da una passione all'altra, è un lavoro nuovo, un viaggio, un percorso di studi, la seconda laurea in antropologia che prende in mezzo ad altri mille impegni. Il suo soprannome, del resto, il soprannome che il pubblico italiano conoscerà per un libro di cui parleremo, è Wondi. L'origine di questo nomignolo lei lo spiega a Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche. Prima ho detto solo parte della verità sul tuo soprannome, che è il tuo vero soprannome, Wondi. Sì. Non è il titolo di un libro. No, questo libro parla di te, della tua storia, e questo è il tuo soprannome da sempre. Perché sì. Ti chiamano Wondi? Ma allora inizia a essere un po' una leggenda, perché ogni volta che lo richiedo ai miei amici mi danno notizie diverse, quindi non lo so più. In realtà mi chiamavano Wondi, almeno così ho capito io, perché facevo 2000 cose. Ai tempi dell'università già lavoravo, studiavo, vivevo in una casa da sola, mi pagavo l'affitto e molti dei miei coetanei dicevano: come cavolo fai? Sei un po' una mini Wonder Woman. Siccome Wonder Woman a me è sempre piaciuta, Linda Carter poi soprattutto, cioè nella versione televisiva, che è chiaramente uguale a me, no? Sono uguale. E ho detto, beh, Wondi mi è rimasto attaccato addosso e quindi me lo sono portato dietro. È già una piccola Wonder Woman con mille cose da fare, con mille spunti, con dei desideri da far diventare realtà, e quindi alla Francesca giornalista si affianca la Francesca scrittrice, e il primo lavoro è un romanzo scritto a quattro mani con la sua amica carissima e collega Alessandra Tedesco. Si chiama La vita è un cactus, edito da Sonzogno 2007. È un romanzo generazionale al femminile, storie di donne che hanno in comune la passione per i cactus, la cui cura diventa metafora della vita, insomma, delle relazioni sentimentali. È una bellissima trovata narrativa. E poi c'è il libro successivo, e lo scrive da sola, e qui esplode la sua grande ironia. Intanto lei si è sposata nel 2004 con Alessandro Milan, il mitico Alessandro Milan di Radio 24, è nata la prima figlia Angelica, e lei decide di raccontare l'esperienza della maternità in modo controcorrente, molto lontana dai canoni del politically correct. Il libro si chiama Mia figlia è una iena, quello che le mamme pensano e non dicono. È una specie di manuale tra il serio e lo scherzoso su come sopravvivere all'arrivo in casa di un neonato. Scrive Francesca: quando partorirai la guarderai negli occhi e capirai tutto. Io non ho capito nulla, dice. Lei aveva gli occhi chiusi e aveva stordito tutti con un pianto che superava la barriera del suono. Questo era l'approccio alla maternità e alla vita di Francesca. L'ho scritto semplicemente perché verso i 16 anni ho visto che mia mamma, per sbaglio, insomma, aveva nascosto un suo diario tra i suoi libri. Io cercavo un libro da leggere e ho ritrovato un suo diario di quando io ero piccola. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, ho immaginato di poterlo scrivere anch'io per mia figlia, che il primo anno di vita mi ha fatto veramente vedere i cosiddetti sorci verdi, no? E quindi ho detto, perché non ricordarle che cosa ho passato io nel primo anno di vita? Ma andiamo poi... anche lei in psicanalisi a 15 Infatti, anni. No, ma questo è sicuro. Anche perché ora non sa leggere ancora, quindi pensa che io le ho detto che ho scritto un libro su di lei, è ancora convinta che sia un bel libro, insomma, poi leggerà e saranno altri problemi, scriverà probabilmente mia madre una bestia, qualcosa di genere, ma sono preparata perché insomma, esatto, me lo sono anche un po' cercata. E sul tema bambini scrive anche il libro successivo assieme a Daria Polledri. È un libro con un titolo curioso: Dizionario bilingue italiano-bambinese, bambinese-italiano. È un'idea geniale, tutti noi l'abbiamo pensato almeno una volta con quelli che hanno dei figli, quanto sia strano il modo di parlare dei bambini. Bene, lei lo mette in pratica, perché è così, è un progetto dopo l'altro, e poi subito oltre, appena raggiunto un obiettivo, e lavora, scrive e fa la mamma, perché nel frattempo è arrivato anche Mattia, detto Attilino, per rafforzare la squadra. Estate, Francesca trova un ostacolo sulla sua strada, anzi due sassolini. niente, abbiamo fatto una bellissima giornata in montagna e quando siamo andati a dormire, per sbaglio, io mi sono sfiorata e ho sentito un piccolo nodulino, un sassolino. Mi sono subito un po' spaventata. Parlando anche con mio marito, ho detto, secondo me c'è qualcosa. Ma no, vedrai, non iniziamo ad agitarci, pensiamoci un attimo, domani iniziamo a chiamare in ospedale, vediamo comunque di fare una visita, anche perché io avevo mia mamma e mia nonna che avevano avuto un tumore al seno, quindi chiaramente si sono accese tutte le lampadine allarme. E nel giro di pochissimi giorni in realtà ho scoperto che effettivamente quel nodulino, in realtà erano due, uno era un pochino più inserito, era più nascosto, ed erano due piccoli tumori al seno che immediatamente, insomma, mi sono attivata per togliere due tumori al seno. In realtà hanno dovuto fare una mastectomia, perché chiaramente erano due su un seno che era una seconda, quindi giustamente dicevano che togliamo tutto, che facciamo prima, e quindi è partita questa mia avventura. Lei la definisce un'avventura. Tutto inizia in quell'estate, 2010, ed inizia un percorso fatto di interventi chirurgici, di chemioterapia, di recidive. È un percorso che porta alla scoperta di un acronimo, BRCA1, che è una mutazione genetica che indica un'alta probabilità di sviluppare tumori al seno. È una cosa di cui si parla poco e oggi se ne parla un po' di più proprio grazie a lei, grazie a Francesca. Francesca Del Rosso, e tra poco vi spiego il perché. Il falco e il gabbiano. Questa è una puntata speciale per noi del Falco e Gabbiano, perché vi sto raccontando la storia di Francesca Del Rosso, autrice delle prime stagioni del Falco, scomparsa un anno fa. Nel nostro gruppo lei si era presa un ruolo preciso, quello di proporre personaggi particolari, spesso legati al tema del viaggio, protagoniste femminili. Tante volte abbiamo scherzato con lei su questa sua, come dire, qualità da appassionata. Ci teneva molto, le sue proposte arrivavano col sorriso e insisteva fino a che non andavano in porto. Insomma, torniamo alla sua storia, torniamo a dove l'abbiamo lasciata, un passaggio cruciale. E siamo arrivati al 2010, a quando lei scopre due noduli al seno, due tumori, verranno asportati e affronta quel percorso difficile che purtroppo tante persone conoscono. È un percorso fatto di chemioterapia, di capelli che cadono, di controlli periodici, e in questo caso, insomma, l'energia e la carica positiva è tutto, lo dicono tutti i medici, ma è evidente, insomma, e lei affronta tutto con grande ottimismo, con la voglia di superare questo ostacolo, e ci mette qualcosa di più, vede il bicchiere mezzo pieno, prova a trovare uno sbocco positivo anche nel cancro, una parola che quasi nessuno ha più il coraggio di pronunciare, perché una delle campagne di sensibilizzazione di Francesca riguarda proprio le parole, perché Francesca ha sempre sostenuto, giustamente, che le cose vanno chiamate con il loro nome. Noi siamo una società ipocrita, noi usiamo la parola morte solo impropriamente, binario morto, mano morta, punizione a foglia morta, poi quando una persona muore diciamo si è spento, ha cessato di vivere. È così anche col cancro, male incurabile, lunga malattia, ha perso la sua battaglia. Non bisogna utilizzarla quella parola. Lei conosceva il valore delle parole e ci teneva molto. E com'è nel suo carattere, lei vive la malattia facendo scelte difficili, rendendole pubbliche, per esempio la scelta di rasarsi la testa prima di perdere i capelli per gli effetti della chemio, mostrandosi con la crapa pelata, è una sua espressione. Ma poi la cosa principale è che ha ancora più voglia di scrivere. Intanto il suo percorso è fatto di buone e di cattive notizie, di momenti in cui ti illudi di avercela fatta e in momenti in cui invece ti dicono che devi fare altri interventi e altre terapie. Tutto questo genera in lei la voglia di scrivere e di approfondire, e il frutto del suo lavoro è Wondi, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro. Un inno alla vita e alla forza innata di tutte le donne, questo è Wondi. Questo romanzo racconta i miei 1000 giorni di vita di mamma, di 2 bambini, la Iena e Attila, di moglie, di giornalista, ma anche della scoperta di 2 sassolini e di un intervento al seno, della chemioterapia e dell'arrivo di 2 protesi e di una bella terza piena di silicone. Questo è anche un libro che parla di una recidiva inaspettata, di una crapa pelata, dell'energia che c'è nelle donne che sono un po' tutte Wonder Woman, dell'importanza di imparare a sorridere anche nei momenti bui e di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. E Wondi diventa un caso editoriale, il libro viene ristampato diverse volte e Francesca lo promuove con grande forza perché capisce anche l'utilità che questo libro può avere per tante altre persone. Va a raccontare la sua storia da Daria Vignardi alle invasioni barbare, che arriva sorridente, bionda platino, spiritosa, beve un mojito, quello che sta nella metà piena del bicchiere, in diretta con la Vignardi. Anche la scelta di andare in TV è meno semplice di come la fa apparire lei, e il perché lo ha raccontato Alessandro, il marito, nella sua lettera di addio, quella scritta il giorno dopo la morte di Francesca. Ora vi svelo una cosa che quasi nessuno sa. 3 giorni prima di presentarsi alle invasioni barbariche da Daria Vignardi, ricevette l'ennesima brutta notizia. Una recidiva. L'ennesima operazione, la radioterapia in vista. Ricordo i consulti nel lettone. Che si fa? Vado? Non vado. Ma io le dissi che avrebbe potuto annullare tutto, avrebbero capito. Al solito fece di testa sua. Andò in TV con un unico obiettivo. Non devo piangere, a nome di tutte le donne. E alla inevitabile domanda, ma ora come stai? Sfoggiò il solito disarmante sorriso. Bene, grazie. No, io sto bene. Chiaramente devi fare controlli. È un continuo fare controlli. Ecco, questa è un'altra noia. E a proposito di questa intervista, abbiamo proprio la persona che l'ha intervistata, cioè Daria Vignardi, che in qualche modo può aggiungere un tassello a questo mosaico che noi, con un po' di dolore e una parte di sorriso, stiamo ricostruendo. Buongiorno Daria. Ciao Enrico, come stai? Bene, buongiorno. Stiamo raccontando, come sai, attraverso una puntata che, come immaginerai, è forse la più difficile che noi abbiamo mai fatto. Sì, lo posso capire. La vita di Francesca Del Rosso. È uno dei momenti che vogliamo raccontare, anche perché è stato citato anche da Alessandro Milan in quella meravigliosa e terribile lettera che lui ha scritto a Francesca. Sì. È proprio il momento in cui lei venne in trasmissione da te. Tu sapevi che lei era venuta nonostante avesse saputo che si era rimanifestato il suo male, il cancro? Allora, io l'avevo intuito, però Francesca non me l'aveva detto. Insomma, diciamo che l'avevo, insomma, avevo intuito per una serie di motivi di sfumature. Che c'era questa possibilità, però avevo avuto l'impressione, ma non solo l'impressione, insomma, Francesca non voleva parlare di quello, voleva raccontare, insomma, lei aveva messo, come sai, nel libro che ha scritto tutto di quella storia. Sì. e ci teneva moltissimo a quel libro, perché per lei significava molto, significava condivisione della, certo, dell'esperienza che stava facendo, e quindi insomma abbiamo parlato soprattutto di quello. Sì, di quella intervista ricordo il non piangersi addosso. Tu no, come la ricordi quella intervista? Io ricordo soprattutto l'allegria di Francesca. Sì. Io ricordo soprattutto l'allegria, la sua voglia di che è proprio della narratrice, no? La narratrice è una persona che qualunque cosa viva, la vive con la capacità di astrarsi e raccontare per condividere. E lei si rideva addosso alla sua voglia comunque di divertirsi, di uscire con le amiche a farsi un mojito. Infatti per l'occasione invece della birretta avevamo brindato col mojito. E soprattutto questo ricordo, e ho sempre ricordato di Francesca, e poi ci siamo poi sentite tante volte dopo quell'incontro. E soprattutto questo ricordo, il sole, la luce, insomma la voglia di non nascondersi e non nascondere la malattia, ma raccontare la malattia anche come un'esperienza e come qualcosa che deve essere condivisa con gli altri. Daria, sei stata gentilissima. No, ma invece io ti voglio ringraziare, perché ci tenevo tanto a esserci e ad abbracciare virtualmente tutta la famiglia di Francesca, tutti quelli che le vogliono bene, che sono tantissimi, perché Francesca è talmente speciale, dico, è anche se è retorico dire, come se ci fosse, ma è vero, perché una persona così ti dà talmente tanto, ti lascia talmente tanto, che per me è un onore la tua la tua telefonata, Enrico, e ci tenevo tanto a esserci per abbracciarvi e abbracciare tutti voi che l'avete conosciuta, le avete voluto e le volete bene. Grazie Daria. Grazie a voi. Grazie. Il falco del Gabbiano. Questa storia, la storia di Wondi, il libro, la condivisione dell'esperienza, soprattutto a favore di tante altre donne, ma ci sono anche tanti uomini che hanno avuto, come dire, dei benefici quantomeno interiori nel leggere il suo libro. Comunque questa storia trova un altro canale, un settimanale importante, che è Vanity Fair. La storia dell'incontro tra Wondi e il giornale, tra Francesca e il giornale, con la nascita del blog Le Chemio Avventure di Wondi, ce la facciamo raccontare dal direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno Luca. Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti. Buongiorno Luca. Senti, com'è nato questo blog? L'idea di questo blog così utile, ma così particolare, insomma innovativo, se così si può dire. Ma guarda, io ero amico del marito, ho conosciuto prima il marito, sì, di Francesca, Alessandro, ero amico suo, poi a un certo punto l'ho ritrovato dopo qualche anno e mi ha presentato Francesca, che mi ha subito colpito, perché tanto mite e posato e tranquillo era Alessandro, tanto sì, grintosa, e io dico rompiballe, ma lo dico con tutto l'amore, è Francesca. Siamo diventati amici, ci siamo seguiti un po' a distanza, i figli, le cose, poi lei a un certo punto mi ha spiegato che stava combattendo questo, il famoso sassolino, come lo chiamava lei, con molta grinta, con molto, insomma, dire allegria è sbagliato, ma insomma, carica positiva, forse. Molta carica positiva, molti sorrisi. Poi due anni dopo, la prima recidiva, insomma, eravamo tutti un po' sotto shock, e invece lei, quando sta per iniziare la chemioterapia, mi manda una mail dove dice: senti, ma io questa cosa che sto vivendo, visto che è una sfiga bestiale, vorrei almeno trasformarla in qualcosa di buono per gli altri, vorrei aiutare le persone, ma io non intendo fare una cosa patetica o tragica, io voglio aiutare le persone a superare il rompimento di balle di quando vai in clinica, devi stare lì 3 ore e poi hai la nausea, poi devi fare quelle, poi mettere le parrucche cinesi e poi sopportare in qualche modo il fatto di non avere i capelli, insomma, lo raccontavi in modo così, così dissacrante, diciamo, era una cosa chiaramente un po' borderline, ma sapevo che fatta da lei avrebbe funzionato, e questo titolo, che è stata una sua idea, Le Chemio Avventure di Wondi, devo dire che è stato dirompente, perché lei proprio, consentitemi la parola, proprio prendeva questa cosa a calci nel culo. E questo è piaciuto tantissimo, e soprattutto ha aiutato tantissime persone ad affrontare quell'esperienza. Poi c'è il reportage di viaggio anche. Ah sì sì, c'è stato anche quello, che è stato bellissimo. Una delle cose con cui affrontava le sue chiavi avventure era i progetti, chiaramente i progetti di cose belle, quindi viaggi, perché lei adora i viaggi, Caraibi, Cuba, adora i mojito, di cui parlava in continuazione, e quindi a un certo punto io chiamo la mia, insomma, la ragazza che si occupa di viaggi e dico: ma senti, perché non mandiamo Wondi a fare un viaggio di quelli speciali davvero? Ed è stata una delle cose che ricordo con perché ha coniugato le sue due passioni, scrivere e viaggiare. Avrebbe fatto ancora grandi cose da quel punto di vista, sicuramente. No, assolutamente. Luca, ti ringrazio veramente. No, io che ringrazio voi. E poi c'è la storia recente, quella degli ultimi due anni. Arriva il Falco e il Gabbiano, arrivo io nella sua vita, si forma un gruppo di amici, di autori, di discussioni con io che prendevo in giro Francesca perché mi proponeva spesso i viaggiatori, eroi solitari in barca, eccetera eccetera. Quindi insomma si crea una amicizia molto molto particolare, fatta di modo di punzecchiarsi, lei che diceva che io ero un bieco maschilista, io che dicevo che era una femminista di altri tempi. In realtà nessuno dei due pensava esattamente questo dell'altro, ma era un modo per giocare con le nostre intelligenze, con la sua sicuramente, spero anche con la mia. E poi torna la malattia, dopo un anno e mezzo di pace apparente, un anno e mezzo vissuto con una spada di Damocle sulla testa, con lei che continua la sua vita di moglie, di madre, continua con i suoi viaggi, con i suoi progetti, anche se il cancro non se ne va mai via, è solo messo a tacere temporaneamente, ahimè, solo temporaneamente, da una terapia sperimentale. E poi quando torna lo fa in modo molto aggressivo. Lei vede l'uscita del suo ultimo libro, ottobre del 2016, mi ricordo una foto fatta assieme, io che tengo in mano il suo libro, è un romanzo da cui lei tiene molto, si chiama Breve storia di due amiche per sempre, esce per Mondadori, è una storia di donne, di amicizia, di ostacoli da superare, e quando esce un libro c'è da fare un tour promozionale, però questa volta Francesca si deve fermare e l'11 dicembre, poco prima di mezzanotte, la malattia vince la sua guerra spietata con Francesca. E poche ore dopo Alessandro scrive una lettera bellissima, una lettera ovviamente scritta molto bene, con un cuore enorme, ma anche con affetto, con lucidità. È una lettera che milioni di persone hanno letto, io l'ho letta più di una volta e mi sono domandato da dove è riuscito a tirar fuori tutto questo coraggio e questo modo di riuscire con eleganza a rendere partecipi tutti di una condizione così personale. Non vi racconterò stupide favolette. Wondi ha perso la battaglia perché lei voleva vivere. Francesca amava follemente vivere. Di più, non ho mai conosciuto una persona più attaccata di lei alla vita. Sempre gioiosa, sempre sorridente, sempre ottimista, sempre propositiva, sempre sul pezzo, sempre avanti. Franci, moglie mia, hai perso la battaglia dunque, ma hai lasciato tanto. A me due splendidi bambini, al mondo una forza incrollabile, una positività che emanava luce. Sfido chiunque ti abbia conosciuta a raccontarmi una volta in cui ti ha vista o sentita piegata dalla vita. Un anno fa per noi e per i tanti amici di Francesca non è stato semplice raccontare la vita di una persona con la quale hai condiviso un percorso e soprattutto in quella che è stata anche la sua trasmissione. E in realtà non è facile neanche oggi, però ci piace vedere quanta strada abbia percorso Francesca in quest'ultimo anno, e questo ci strappa un sorriso. Vi ho già detto dell'associazione creata da Alessandro Milan, Wondi sono io, cercatela su internet www.wondisonoio.org, e poi vi ho accennato prima alle tante iniziative che vengono organizzate in suo nome da Alessandro: un premio letterario, spettacoli teatrali, incontri. Vi segnalo una cosa in particolare: la mostra In viaggio con Wondi, è una mostra itinerante com'era lei, una mostra che da quando ha iniziato a viaggiare in giro per l'Italia non si è mai fermata. Ma la mia idea di futuro è quella di pensare di più al presente, cercando di renderlo sempre migliore, e forse di non aspettarci troppo dagli anni a venire, cercare di migliorare il nostro oggi, il nostro presente, e pensare al domani, ma senza spostare troppo l'asticella, troppo in là. Iniziamo a stare bene oggi, che già sarebbe un grande traguardo. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.